Uno, nessuno, nessuno, 100 Milan. Alessandro Milan sta arrivando su Radio 24. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Le scarpe mi stanno strette. Il sole scalda. Il pappagallo è rosso. Leonardo è amaro. L'aquila vola. Il limone dà frutti. La mucca non dà latte. È cessata la pioggia. Eccoci qui, signori. Siamo in diretta per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan dalla ridotta di Viale Monza, in diretta con voi fino alle 10.30, cari ascoltatori. E il sole scalda, sapete perché? Perché sono sul balcone. Sì, ho deciso di trasmettere oggi dal balcone, dai nuovi social, sentirete sottofondo. E cosa ridi, Alpino e regia, è vero? Sentirete in sottofondo il traffico che scorre, perché ci sono macchine che vanno in giro. Qui la vita va avanti, anzi, qui sotto c'è il mio edicolante. Luca, scusate, adesso devo chiedere. Luca! Luca, come vanno le vendite dei giornali? Come domenica! Come domenica? Tutta calma! Quante copie del Sole vendi? Sì, come no! Quante ne hai vendute del Sole? 5! 50! C5, no, 5, ha detto 50. No, non come non barare, mi ha urlato di non barare. Vabbè, signori, siamo in diretta da Viale Monza, letteralmente davanti a me c'è la casa occupata storica di Milano. Saluto dal balcone chi si affaccia sul balcone di fronte. Siamo qui in questo esperimento sociale, i nuovi social, i balconi. Allora ho deciso di trasmettere dal balcone per stare con voi. Saluto l'Alpino in regia, sbracciati Alpino, ecco, ti vedo in via Monte Rosa, grazie. Si è sbracciato l'Alpino. Saluto, perché mi augura, c'è il sole, perché mi augura la pioggia. Saluto Laura Faggino oggi in regia insieme a noi, insieme a Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi. Siamo sparpagliati, ma ci vogliamo bene lo stesso, ci abbracciamo virtualmente. Voi ci siete al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, con i vostri messaggi, e chiamateci all'800-24-0024. C'è anche Vestagliona Manera che ci attende alle 9.30. Vai Alpino! Enthusiasm. About the future. Dai, dai, entusiasmo. Dicono che siano decisivi i prossimi giorni, dicono che il picco possa arrivare domenica, dicono tante cose, mentre qui il traffico di Viale Monza scorre tranquillamente, no, un po' a ritmo ridotto. Ecco, a proposito di traffico, vorrei farlo all'ATM, perché ieri ho ricevuto tantissime segnalazioni per quel che riguarda l'azienda dei trasporti milanesi sul fatto che siano state ridotte le corse, per cui le persone sono di fatto pigiate, né pigiate non come certo nelle ore di punta, quando sono giornate normali, però sono abbastanza vicine, non riescono a mantenere la distanza di un metro. Mi raccomando, so che da ieri c'è stata un'inversione di tendenza a dire dobbiamo tornare a riaumentare le corse, però è importante farlo, ed è importante garantire la sicurezza dei viaggiatori, visto che molti vanno a lavorare. Anzi, appello anche oggi, chiamateci 800 24 00 24 per raccontarci che cosa state facendo, che lavoro continuate a fare nonostante l'emergenza, e anche in emergenza. Poi c'è lui, signori. Noi ci lamentiamo dei nostri politici, ma in America hanno un presidente, Donald Trump, che nel giro di 10 giorni ha detto tutto il contrario di tutto. Ha detto che questo virus non era grave, e invece adesso ha detto che praticamente bisogna chiudere tutto. Sentilo qua, Trump. Therefore, my administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible, avoid gathering in groups of more than 10 people, avoid discretionary travel, and avoid eating and drinking at bars, restaurants, evitare di andare nei bar, evitare di andare nei pub. Meaning be Yeah, if you're talking about the virus, no, that's not under control for any place in the world. I think I read. Adesso dice è fuori controllo in qualsiasi parte del mondo. Ragazzi, ci sono degli atteggiamenti che sono simili ovunque. Oggi scrive bene Michele Serra sulla Macca di Repubblica, quando scrive: con la sola eccezione per adesso del vice gradasso Boris Johnson, il gradasso in capo è Trump, c'è una sostanziale uniformità nelle reazioni dei governi. In un primo momento sottovalutazione, mano a mano che il virus avanza, allarme giallo, poi arancione, poi rosso. È solo lo sfasamento temporale a far la differenza. Si ammette di essere nella merda, non so se sia una metafora virologicamente attendibile, ma eloquente, solo quando arriva al collo. Questo fa pensare che nonostante le iperconnessioni del mondo, i famosi organismi internazionali, il consultarsi, l'esperienza altrui, la sofferenza altrui, non basta a mettere in movimento muscoli e nervi con il dovuto anticipo. Fare tesoro della sciagura degli altri, degli errori degli altri, è puramente ipotetico, tant'è vero che nessun governo del mondo ha approfittato della lezione cinese prima, di quella italiana poi, per correre ai ripari in anticipo. È un po' come la guerra, è in Siria? È in Sudan? Beh, sono cose loro, io vado al bar. Due settimane fa parenti francesi mi hanno scritto mail con su «Come farete, poveri italiani?» e ho risposto loro che avremmo fatto, noi poveri italiani, esattamente come i poveri francesi stanno facendo adesso e i poveri cinesi un mese fa. L'allineamento è inevitabile, inarrestabile. Presto sarà mondiale, se non nei pochi e fortunati luoghi come l'Antartide, le basi spaziali, i panfili dei miliardari, dove il virus non si intrufolerà. Gli altri, tutti gli altri, stanno vivendo la stessa storia. Signori, è così. Infatti, che cosa succede? Qualche giorno fa che Carla Bruni, prendeva in giro dicendo, facendo finta di tossire in pubblico. Vai Alpino, senti qua, un po' così. Ecco, a un certo punto fa finta di tossire, come d'altronde ho visto anche un calciatore, Diego Costa dell'Atletico Madrid, dopo la vittoria con il Liverpool. È passato davanti ai giornalisti che volevano intervistarlo e lui gli ha tossito addosso, così, per far finta. Insomma, qui Alpino sento un profumone per tutti questi atteggiamenti di un premio che deve spandersi nell'aria. Hai la faccia come il culo. Bene, cari ascoltatori, però non c'è solo il coronavirus. Io vorrei salutare il primo ospite che oggi abbiamo in onda per parlare anche di qualcosa di diverso. Di coronavirus parleremo tra qualche minuto più avanti. E il primo ospite racconta di una storia che forse abbiamo letto sui giornali. Racconta della storia di un ragazzo, anzi di due ragazzi, un uomo e una donna. Lui si chiama Luca Tacchetto, ha 31 anni. La compagna si chiama Edith Blé, è canadese, 35 anni. E sono stati per 15 mesi prigionieri probabilmente di uomini affiliati ad Al-Qaeda, questa rete di terrorismo islamico internazionale, rapiti in Burkina Faso, liberati poi a Bamako in Mali. Io voglio salutare il padre di Luca Tacchetto, Nunzio Tacchetto, buongiorno e grazie buongiorno. Di essere con noi. Buongiorno, io la buongiorno. Ringrazio e le voglio subito chiedere se ci può trasferire che tipo di abbraccio c'è stato al ritorno di Luca in Italia dopo 15 mesi. Un abbraccio molto silenzioso e lungo come i mesi che non ci siamo visti. Lui da una parte e noi dall'altra. È stata una cosa che ti cambia la vita. Era già cambiata, ma è ricambiata ancora. È ricambiata, insomma, era cambiata piombando in uno stato, immagino, di frustrazione, di prostrazione, di speranza che mi sembra però sia rimasta sempre alta in questi 15 mesi, pur nel silenzio, o no? Sì, la prima cosa che Luca mi ha detto è stata scusami per il dolore che ti ho dato, ma a parte questo sia lui sia noi sia la mia famiglia, insomma, abbiamo sempre sperato. Dopo ci sono varie fasi, nel primo periodo hai la speranza e la disperazione, dopo più passa il tempo più il dolore ti scava dentro e diventa una cosa impossibile, anzi il tempo non cambia, quindi solo la speranza ti tiene su, insomma, ecco. Dopo certo, è finita così. È finita bene, insomma, è finita bene nonostante 15 mesi di vita che sono stati immagino difficili. So che ci sono tante cose che non si possono immagino raccontare di questo sequestro. Ci dica che cosa si può raccontare invece. Si può raccontare che intanto ci vuole il tempo, perché io mi sono accorto che per 15 mesi Luca non è stato nel nostro mondo, c'è un mondo completamente diverso e poi in prigionia, in un certo tipo di prigionia non si può neanche immaginare. Adesso ci godiamo i giorni e le sere, soprattutto quando ritorna un po' alla volta il racconto, che prima è solo una cornice, poi un po' di contorno, poi un po' di nitidezza, e ci rendiamo conto che è stata una cosa che non si può neanche dire, alcune cose non si possono, non si devono dire, ma insomma bisogna lavorare per cercare di unire di più tutta la gente, perché le cattiverie e le crudeltà esistono veramente e sono incredibili. Immagino che la cattiveria più grande c'è in tutti questi casi è sentirsi dire ma perché è andato lì, ma perché si è messo nei guai, ma perché si è messo in testa di andare in certe zone del mondo, che cosa ha fatto, quante volte se lo sarà sentito ripetere. Solo le persone che non capiscono la profondità delle cose possono dire questo, è proprio la superficialità che ti porta a questo, quindi scorrono sopra. La risposta è perché è andato lì, perché è una persona come tanti che ama il mondo e che voleva in qualche maniera scoprirlo e contribuire ad aiutarlo. È visione poetica, naturalmente visione utopistica, ma che una parola grossa, a noi è servita molto, perché attraverso questa sofferenza indicibile ci ha aperto gli occhi su altre cose. Abbiamo recuperato la vita di una persona amatissima e dobbiamo ridare la vita a tanta altra gente. Ce lo può spiegare lei da papà perché è andato lì? Quali aspirazioni, quali sogni, che cosa ha spinto Luca con la fidanzata ad andare in Burkina Faso, dove ricordiamo è stato rapito? Luca è sempre stato una persona che, anche per la professione che fa, ha sempre cercato di dare un contributo, come dire, di cose belle a tutti, e siccome poco tempo prima aveva conosciuto le persone che in Togo dovevano costruire un villaggio umanitario, ha detto ti do un mese, due mesi, quello che vuoi della mia vita, della nostra vita, per contribuire anche noi. Però ho unito quindi all'amore per le persone e per la vita, ha detto prendo l'occasione per vedere un continente che non ho mai visto. Naturalmente io ho detto guarda, prendi un volo, vai lì e sei a posto. No, non è la stessa cosa, voglio vedere l'Africa vera, è l'Africa vera, quella che noi non conosciamo e che esiste, l'ha vista veramente. Ecco, questo è. Certo. E si è andato a sbattere senza saperlo. Si è saputo chi lo ha tenuto prigioniero, cioè come dire il contorno, lo scenario di chi fossero i rapitori, si è parlato molto di queste associazioni vicine ad Al-Qaeda, di terrorismo islamico, no? Ecco, io naturalmente come dire posso sorvolare su queste cose, ma sì, si sa tutto bene, tutto chiarissimo ed è tutto anche ovviabile, volendo e sapendo e avendo in testa un certo tipo di visione del mondo. Chiaramente sono sviranaggi più grandi di noi siamo stati scaraventati in una realtà mondiale che non c'entra niente. Mondiale. Però c'è stato tutto. Sì, questo sì, ed è bene che lo sappia, come dire, la nostra intelligence, la intelligence dei vari paesi e che venga tenuto in debito conto. Ne approfitto per dire che noi non ci rendiamo conto di quanta gente brava, bravissima c'è che lavora per noi, al di là del mio caso personale, e che lavora in silenzio, e prima di tutto gli uomini della Farnesina, dell'unità di crisi, sono eccezionali. Senta, signor Tacchetto, si è parlato molto dell'epilogo finale, della fuga, se si è capito bene c'è stato anche un precedente tentativo di fuga da parte di suo figlio e della fidanzata, poi sono stati ripresi, cioè queste sono quasi scene da film, da romanzo, è tutto, no? È tutto vero. Dopo ognuno gioca la sua partita e ognuno usa per molti scopi, ma è tutto vero, e devo dire che è stato una grande forza fisica e psicologica, per me una grande intelligenza veramente, è un miracolo per condire il tutto. Certo. Comunque, ecco. Tra l'altro leggevo che di recente, voi pensate, cari ascoltatori, anche la vicenda del coronavirus, dell'emergenza, di quello che stiamo vivendo in Italia, in qualche modo era stato trasferito, se non sbaglio, a suo figlio da parte dei rapitori e a suo figlio alla fidanzata, cioè, come dire, sta succedendo qualcosa in Italia di molto particolare. Questo per dire che le notizie, anche una notizia del genere, vola così veloce, no? Sì, ma il mondo è molto più informato di quello che noi pensiamo, e la realtà dell'Africa, dell'Africa nera o dell'Africa sahariana è molto più tecnicizzata e tecnologicamente avanzata di quello che noi possiamo pensare. Certo. Senta, le chiedo un'ultima cosa, la ringrazio molto, Nunzio Tacchetto, voglio ricordare il padre di Luca, vuole mandare magari un messaggio a tutti i genitori che si trovano nella situazione sua, perché ci sono altri italiani in questo momento rapiti, noi abbiamo parlato a volte del caso di Silvia Romano, che forse è il nome che tutti conoscono un po' di più mediaticamente, ma ce ne sono anche altri, e quindi ci sono altri genitori, altri parenti che stanno come stava lei 2-3 giorni fa. Sì, noi, come dire, abbiamo ben presente la comunità delle famiglie dei rapiti o appunto delle persone segregate, e non occorrono tante parole perché ci sentiamo e siamo una come dire, siamo persone che si confrontano e si parlano, però bisogna avere la cosa che tutti vogliono farti perdere, cioè la speranza e la determinazione di proseguire nella ricerca, perché questo è quello che ci salva e che salva gli altri. Bene, ci mandi un grosso abbraccio e porti un grosso abbraccio a Luca, ovviamente anche alla compagna, insomma, che non so se è tornata in Canada in questo momento. L'hai detto, è stata bravissima. Perché dice è stata bravissima, soprattutto la fidanzata? Perché è una donna tra l'altro molto minuta, quindi è stata bravissima, è riuscita a resistere dove altri non riescono a resistere dal punto di vista psicologico e fisico. Quindi veramente. Un applauso doppio. Un applauso doppio. Grazie davvero, Nunzio Tacchetto, per essere stato con noi. Ripeto, il padre di Luca, 15 mesi rapito insieme alla fidanzata canadese Edith in Burkina Faso, liberato in Mali. Avete letto magari sui giornali, certo non nelle prime pagine, in questi giorni le prime pagine sono prese dal coronavirus, ma avete letto la loro vicenda un po' più avanti. Qui su Viale Monza c'è sempre il sole, mi dicono che c'è un rumore di sottofondo, d'altronde sto trasmettendo dal balcone, oggi ho deciso così, vedo gente che passeggia, vedo gente che va a fare, non so, forse la spesa, va a fare le commissioni, sentite anche camion, rumori, molte macchine che si spostano, facciamo così, allora noi andiamo un attimo in pubblicità, poi ci colleghiamo con Vestagliona Manera da casa sua, ci colleghiamo anche con il Trentino Alto Adige, perché abbiamo il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compaccer, che ha di fatto chiesto a tutti tutti coloro che non sono residenti lì di tornarsene a casa loro, di andarsene via e lasciare il Trentino Alto Adige ai trentini o agli altoatesini. Tra poco. Siamo stati colpiti, ma siamo consapevoli. Siamo distanti, ma siamo uniti. Siamo italiani. Venerdì 20 marzo, ore 11, alza il volume della tua radio. Esci sul balcone, sventola un tricolore o ciò che ti fa sentire italiano e canta. Canteremo tutti insieme. Tira fuori tutto. La speranza, la voglia e la forza e l'orgoglio di essere italiani per sentirci più vicini. Per la prima volta nella storia, tutte le radio unite sono con te. La radio per l'Italia. E ricorda, andrà tutto bene. State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. When there's no one left to fight, boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. Milan, bellissima questa idea, ci sentono le macchine sotto che passano. Bellissima Milan, bravo, bravo, bravo. Devi tirare in ballo Manera. Con la vestagliona poi non è il massimo sul balcone, prende freddo. Eh sì, Manera prende freddo. Manera, Leonardo dalla ridotta di Beniamino, Piazza Le Udine. Beniamino, pulisci bene il vetro, passa bene lì lo straccio sui vetri, Benia. Già ieri mi ha obbligato a pulire tutta la casa. Vabbè, per forza, almeno Beniamino, ti rendi utile. Massima solidarietà. Che... Ma come è utile? Deve andare a scuola, deve fare la scuola virtuale, deve collegarsi. Ma quella c'è tempo per studiare, per i compiti, adesso è importante che pulisca a casa. Vai sopra lucidare il pavimento, bene. L'abbiamo già fatto ieri. Ecco, va bene. Allora, tu sei da Piazzale Udine, io trasmetto dal balcone di Viale Monza a Milano. Siamo qui, cari amici, in diretta fino alle 10.30. Tutto bene, Leonardo? A parte schiavizzare il figlio. Ho trovato finalmente un modo di utilizzare mio figlio in modo utile. Non è che sempre devono essere i genitori a disposizione dei figli. Finalmente siano i figli a pulire casa, a darsi da fare, dare di gomito. Ecco. Sei veramente uno schiavista. È l'aspetto positivo di tutti questi giorni. Oggi però dopo dovremo fare i compiti. Vabbè, li dovrà fare lui comunque, tu dovrai solo assisterlo. Però adesso io, caro Leonardo, voglio introdurre un ospite e lo faccio leggendo una lettera che è comparsa oggi su Libero. È di un ex imprenditore che dice 80 anni e dopo una vita di sacrifici e lavoro ho comprato un appartamento a San Candido dove vivo con mia moglie 3 mesi d'inverno e 3 mesi d'estate e credo, pagando le tasse, IMU, tassa sui rifiuti, di avere diritto di stare qui e di non meritare il trattamento che invece mi sta riservando la provincia autonoma di Bolzano. Qual è il problema? Lo vogliamo chiedere direttamente al presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compacer. Buongiorno presidente, grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Allora, lei di fatto ha chiesto con un'ordinanza che tornino nelle loro case di prima proprietà tutti coloro che hanno le case di seconda proprietà o quelli fortunati di tua terza proprietà che stanno in questo caso nella sua provincia. Perché ha chiesto questo, presidente? Beh, innanzitutto a dire il vero si tratta di una raccomandazione. Il tema è che ovviamente non si riferisce alle persone che sono qui per motivi di lavoro, che hanno qui il loro domicilio, anche motivi di studio e altro, ma chi si trova, diciamo, sul territorio per altro motivo, che sarà diciamo la vacanza o una permanenza comunque non collegata a esigenze diciamo specifiche. E qui la nostra preoccupazione è la seguente, cioè le persone in questa situazione dovrebbero rivolgersi soprattutto al loro medico di fiducia, medico di medicina generale di base o nel caso dei figli al pediatra e in queste situazioni, diciamo, questo non è reperibile perché non è sul territorio, invece si trova lì dove hanno il loro luogo di residenza. Perciò l'ordinanza contiene, oltre alle prescrizioni precise, che sono quelle recepite dal DPCM statale, anche una serie di raccomandazioni. Questo riguarda tanti aspetti e, tra l'altro, anche questo, la raccomandazione, diciamo, di organizzarsi in tal modo di avere l'assistenza anche del medico di base. Beh, quindi lei dice, ne fa una questione proprio legata al medico, no? Altrimenti si va a, tra virgolette, intasare la richiesta delle strutture sanitarie locali, e quindi bisognerebbe stare... Ma è proprio stare... così, noi dobbiamo fare di tutto, questa è anche la strategia a livello nazionale, no? Evitare che ci siano le persone che si rivolgono direttamente, diciamo che si recano personalmente direttamente al pronto soccorso o alle strutture centrali, perché questo rappresenta veramente un rischio anche per quanto riguarda un ulteriore contagio, e soprattutto in quelle strutture che sono molto sensibili. E perciò bisogna sempre avere il presidio sul territorio tramite telefono, tramite interlocuzione col medico di base, e questo in questo caso, diciamo, non è garantito, e la nostra preoccupazione era proprio quella, e perciò la raccomandazione alle persone che non hanno qui in Alto Adige il rapporto diretto col medico di base di organizzarsi in altro modo, entrando eventualmente anche diciamo al luogo di residenza. Presidente, che effetto fa? Cioè, oggi si legge i giornali, si parla di Europa blindata, di Schengen sospeso, di tutti gli paesi che in qualche modo stanno pensando a isolarsi. Abbiamo fatto anche qualche giorno fa, abbiamo parlato del fatto che il Brennero sembrava chiuso, l'Austria chiudesse le frontiere. Non sembra questa sorta di autarchia, dire ognuno pensi per sé, un segnale un po' contro l'unità dell'Italia? No, in effetti non è proprio il contrario. Noi diciamo, in Alto Adige non si caccia nessuno, anzi noi ci preoccupiamo di poter dare l'assistenza giusta, adeguata a tutte le persone, e questa è la nostra preoccupazione. Mm. Perciò non è che uno debba andare, è una raccomandazione proprio per poter garantire le persone. Non è che sia, diciamo, adesso un'ordinanza del tipo tu devi andare via, ma guarda, occupati della tua situazione, cerca di organizzarti in modo da poter essere assistito anche in modo adeguato. Bisogna dire per correttezza che anche in Liguria hanno fatto questo, in Val d'Aosta hanno detto questo, cioè anche al sud Emiliano, presidente della regione Puglia, più volte ha detto sbagliano coloro che vengono, che scappano da Milano, le immagini le abbiamo viste, perché poi ci troviamo in una situazione di questo tipo. Presidente, come va lì nella provincia autonoma di Bolzano? Come casi siete... Sì. Più tranquilli rispetto alla Lombardia, per esempio. 240 casi, diciamo, risultati positivi. Purtroppo abbiamo già anche 8 persone che sono morte, diciamo, a cause collegate al coronavirus. La gente, devo dire, ha reagito molto bene. Sì. C'è molta disciplina, si seguono le regole, le prescrizioni e anche i suggerimenti da parte degli esperti. Io credo che facendo così, ovviamente dobbiamo farlo ancora per un po' di giorni, potremmo invertire la tendenza. Io sono abbastanza fiducioso che la nostra comunità abbia questo spirito diciamo di responsabilità e questo senso civico per potersela fare. Bene. Presidente, noi la ringraziamo, grazie Arno Compaccio, presidente della provincia autonoma di Bolzano, ovviamente buon lavoro a tutti coloro che lavorano in questo senso. Leonardo, io aspetto che sul balcone, devo salutare tutta la chat di miei amici milanisti, c'è una chat straordinaria della quale faccio parte, sono tutti milanisti, tu non sei entrato, non vuoi entrare, aspetta che devo lanciare un messaggio dal balcone fondamentale, Leo, tu di pure, forza no. Milan! Ecco. Grazie. Ah, ma questi però non sono gli applausi che arrivano dal balcone, sono gli applausi arrivano dalla regia. Sì, c'è uno che mi guarda perplesso. Forza sì. Milan! Vabbè, è un appello caduto ridetto. Nel vuoto, mi sembra, lì in Viale Monza. Abbastanza caduto nel vuoto. Forse in Viale Monza tengono al Monza, non lo so. Niente. Comunque, sai cosa? Adesso ascoltando il presidente Compaccio, sì. L'impressione che abbiano ragione tutti, Cioè il signore di prima che si lamentava di sentirsi un po' messo da parte nonostante paghi le tasse lì, sì, ha ragione. Il presidente ha ragione, cioè tutti hanno ragione, quindi non c'è via d'uscita secondo me. È un po' come il decreto. Nella vita, si può fare. Guarda che nella vita ognuno ha ragione sempre dal proprio punto di vista, quindi sì, non c'è mai via d'uscita, siamo condannati. Sì. No, ma sai che questo è uno dei problemi che per esempio mi spinge ad avere dei dubbi fortissimi quando devo votare, quando mi è richiesto di schierarmi, perché dico sì, hai ragione, poi parla quello che la dico, anche tu non hai tutti i torti effettivamente. Anche quando si litiga in una coppia, ognuno ha sempre ragione dal proprio punto di vista, quindi non se ne esce mai. Volevo sottoporti l'articolo oggi sulla stampa, l'ho letto, l'ordine dei psicologi, attenzione, dice la quarantena stravolge la vita in famiglia, e questo l'abbiamo detto tante volte, tu l'hai spiegato molto bene, equilibri a rischi, rischio di separazioni e suicidi, allegria. Amici ascoltatori, allegria. appunto. Eppure dicevano fino a ieri che stare in casa, fare la pizza, fare le torte, mettere Guarda, le mani nella farina... Prima un post di Sgarbi che anche lui ribadisce le cose che avevo detto io l'altro giorno, cioè che si sta in casa, però non è bello come dicono questi bello, artisti, sì, no? Sì. Che sembra che sia la cosa più bella del mondo, è una grande rottura di scatole. Che hanno il parco. Certo, se hai un parco privato, un castello, sì, invido il parco perché potresti giocare fuori a pallone, magari con mio figlio. Invece noi al massimo, io e Beniamino, giocheremo a pallone nella corsia dei box sotto, dove si parcheggiano le macchine. Ricordiamo che in questo momento Beniamino sta pulendo i vetri. Sentiamo Maria che ci chiama da Genova. Se c'è qualche ascoltatore adesso sentiamolo. Maria, buongiorno. Buongiorno dottor Milan. Buongiorno dottor Manera. Però il discorso è velocissimo, ma verte sul fatto che il dottor Compaccio, che lei ha sentito prima, dice una cosa che però per converso colpisce, perché dice sì, certo, voi non volete che qualche appestato venga dalle vostre parti e vi rovini queste come dire, località che sono solamente immagini da Mulino Bianco, perché sa benissimo che loro tengono tutto a specchio, ci sono questi ospedali che si mandano delle cliniche da Milord americani, e quindi figurarsi se dobbiamo andarci noi a portare i nostri guai. Però no, non si rendono conto, perché un po' di senso di gratitudine bisogna averlo verso una nazione che ti versa tutti gli anni, essendo uno statuto speciale, delle montagne di denaro. Voi avete nelle vostre località delle cose incredibili. Sono soprattutto soldi che si tengono, diciamo, delle tasse del Trentino Alto Adige che rimangono lì sul territorio. Però Maria non ha detto non voglio che ci veniate a rovinare, ha detto che sarebbe bene che ognuno si riferisse per esempio al proprio medico di base, al proprio pediatra. Era per non appesantire, la sanità locale. Ma guardi, che tra l'altro, Maria, lo chiedo a lei, credo che, attenzione, mi è entrata un'ape in onda dal balcone, giustamente mi è entrata un'ape, vabbè, è uscita. Un'ape carta, le volevo chiedere questo, Maria. Anche in Liguria, se non sbaglio, ci sono stati degli appelli a dire, cari turisti che avete le seconde case, ma non il domicilio o la residenza, tornate dove avete la vostra residenza. Lei non lo trova giusto, non è una discriminazione. C'è un abisso tra i guadagni che potrebbe portare poi dimostrare la Liguria cosa può fare come incassi turisticamente estate inverno, e quello che invece possono portare loro a dimostrazione di cosa montagne di denaro portano gli italiani da loro. Secondo me quindi c'è un abisso. Certo, io non è che ho la palla di vetro che vedo. No, ma è chiaro. È un po' infastidita da questo atteggiamento della provincia autonoma di Bolzano. La ringraziamo, Maria da Genova. Grazie per questo intervento. Leonardo, vuoi uscire anche tu io sul balcone? C'è anche tu un balcone o c'è il pipistrello che ti assale se esci sul balcone? No, io pensavo intanto che ha ragione anche la signora, come anche il presidente e anche il primo. Io mi trovo d'accordo con tutti. Anche io un po' ho ragione, vero? Ma certo, chi non ha ragione? Secondo me tutti hanno sempre. Io esco sul balcone, ma sul balcone non ci sono rumori, perché il mio balcone dà sul giardino condominiale. Perché hai il parco. cos'è che succede? Ah, ecco, perché, perché hai un parco, hai un parco. Devi, devi camminare per acri e acri tu prima di trovare un'anima viva. E poi do su una via interna che non è molto trafficata. Vabbè, ma, quindi non ci sono rumori. Ma urla rumori qualcosa, ti invita Lisa per esempio a urlare Forza Bonetti. Forza Bonetti, so, urla viva l'amarezza, urla qualcosa, urla, dai un messaggio al mondo in questo momento. Dai Leo, 3, 2, 1. Attenzione all'osteoporosi. Così per parlare di un'altra malattia. C'è Stefano da Brescia, buongiorno, prima ciao. Del traffico. Stefano, eccoci. Sì, buongiorno, ciao Milan. Leonardo, vuoi venire con me sul camion? Un metro di distanza ce l'abbiamo, Sul camion, dove stupendo. Stai andando? Dopo, dove stai andando? Dopo ne parliamo anche di autotrasportatori. Vai Stefano, che stai facendo? Sto andando a Verona, provengo da Torino. Ma come mai? Andando... Che lavoro fai? Cosa trasporti? In questo momento trasporto l'acqua. Sto andando in una piattaforma a Verona. Okay. E sui pannelli che vedo in autostrada dicono che la frontiera della Slovenia è chiusa. Cioè, merci, sì, le trasporti solo in Italia. Non vai e non vieni. Cioè, il corridoio Spagna-Romania è tutto chiuso a questo punto. Non si trasporta più nulla. Allora, la Slovenia aveva chiuso le frontiere, ma adesso ci lanci una sfida Luchetti, perché sfida Luchetti, Miriam, la nostra Miriam Luchetti, ci deve dire se è ancora chiusa la frontiera con la Slovenia. Questo che problema comporta, Stefano, dal tuo punto di vista? A mio punto di vista significa che cioè quello che trasporti in Italia lo trasporti solo in Italia. I trasportatori esteri non vanno e non vengono. E infatti ne vedi che... di autotrasportatori targa straniera? Ne vedo, ancora ne vedo, però secondo me girano solo all'interno del territorio italiano, perché non penso che possano arrivare, un camion targato rumeno, penso che in Romania non possa arrivarci, perché la frontiera slovena essendo chiusa non vai da nessuna parte. Insomma, beh, è un bel l'impressione, tema. L'impressione che abbia senza ragione anche volerlo... Stefano. Questo sicuramente, ha ragione Stefano, ma poi si sta realizzando involontariamente il programma di alcuni partiti, cioè autarchia e decrescita, più o meno felice. Ma infatti oggi l'apertura di molti giornali è su questo, il fatto che l'Europa è chiusa, anche l'America per la verità un po' si sta blindando, però sì, è chiaro che autarchia è una situazione e decrescita, c'erano partiti che caldeggiavano queste due situazioni, il stanno PC, realizzando. Per esempio, il PC era uno di questi, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, volevo sapere che fine hanno fatto i puffi francesi. L'hanno fatto il tampone? Sono veramente dei geni. Scusate, ma voi fate sentire Trump che dite che ha detto tutto il contrario di tutto, ma anche qui in Italia ne abbiamo uno, che era in montagna con in mano il tagliere e il vino e diceva venite tutti che l'Italia è bella, e adesso sta gridando chiudere tutto, chiudere tutto, chiudere tutto. Ma non lo so a chi si riferisce l'ascoltatore, però siccome i miei amici della chat però, non hanno ancora colto, aspetta che devo rifare un urlo perché se, mi riaffaccio al balcone... Forza Milan! Ecco la signora, mi saluto la signora che... Un altro appello basta. Caduto nel vuoto. Sì. Va bene. Aveva ragione anche l'ultimo ascoltatore. Certo. Sì, va che bene, io vorrei fare... sì. Vorrei fare un talk show politico dove arrivano i vari ospiti e io dico ha ragione, è vero. Dopo arriva l'altro che la pensa in modo opposto. Ha ragione anche lei. Va bene. Tutti abbiamo sempre ragione. Allora, sfida Luchetti, l'ingresso sul territorio sloveno è oggi consentito solo a mezzi con targhe locali e o estere che devono effettuare consegne all'interno dello stesso paese. Quindi, per rispondere all'ascoltatore, sì, possono andare in Slovenia gli sloveni o anche chi deve consegnare merci all'interno della Slovenia, per cui se uno dall'Italia deve consegnare può andare. Però io vorrei sentire, caro Leonardo, se tu hai ragione, ti ascolto in maniera... Sicuramente silenziosa avrò e religiosa, ma certamente, guarda, a priori. Dunque, il gioco si fa duro, più di 20.000 contagi, gran parte del nord in emergenza, sempre meno posti letto in rianimazione disponibili. Sembra che dopo un po' di titubanze e anche di incredulità lo abbiamo capito. Il coronavirus è una cosa seria che ci preoccuperà per un bel po' di tempo e allora anch'io voglio essere un bravo cittadino italiano e comportarmi come suggeriscono le istituzioni. Prima di tutto l'informazione. Appena mi sveglio ascolto il giornale radio oppure 24 mattina per capire com'è la situazione che in questi giorni non è mai lieta. Ascolto le notizie mentre bevo il caffè e il combinato disposto delle due azioni contribuisce subito ad aumentare la mia acidità di stomaco. Passo successivo, butto giù un inibitore di pompa protonica, detto anche gastroprotettore, visto che la mia mucosa gastrica, dato il periodo, ha issato bandiera bianca. Avverto anche una lieve tachicardia, ma non le do peso. Sicuramente anche quella fa parte del pacchetto coronavirus, o meglio dell'ansia che provoca. Butto giù anche un calmante, uno di quelli che non servono a molto, tutti a base di erbe, ma che magari hanno un po' di effetto placebo. Già che ci sono, misuro anche la pressione, è un po' bassa. Strano, di solito ce l'ho un po' alta. In casa ho della liquirizia? Sì, ce l'ho. Ne succhio una stecca intera per rialzarmi la pressione. Poi ho due cose da fare. Andare in farmacia a prendere la mucchina, ormai faccio il bagno nella mucchina, e al supermercato a fare la spesa. Per prima cosa compilo l'autodichiarazione. Sono in transito da farmacia proveniente da supermercato e diretto a casa. Mi vesto per uscire. Mascherina tipo chirurgico che non serve a niente, ma le altre non si trovano. Mi fa un effetto placebo. Guanti in lattice, esco di casa, chiudo la porta, la chiave, mi buca uno dei guanti in lattice, mi tolgo le scarpe per non portare il virus in casa, rientro e cambio i guanti, esco, chiudo la porta, rimetto le scarpe e vado in farmacia, tutti con la mascherina e farmacisti, ma la farmacia è vuota. Mi dicono che ormai vanno solo gli anziani che per non sentire la solitudine preferiscono andare a comprare qualcosa, qualsiasi cosa in farmacia. In quel momento sono l'unico che c'è in farmacia, immediatamente mi sento anziano. Poi al supermercato a fare la spesa, si entra scaglionati e anche con la O al posto della A e l'ansia cresce un po' quando vedo alcuni scaffali semivuoti. Si fa la spesa più velocemente possibile e si va via. Sì, ma i sacchetti della spesa, penso, anche quelli possono trasmettere il virus. Torno a casa, lavo le confezioni di quello che ho comprato, metto i sacchetti in quarantena e compilo un'altra autodichiarazione perché devo andare a prendere mio figlio come prevede il decreto per i genitori separati. Finalmente lo posso abbracciare, lasciando le scarpe di entrambi fuori dalla porta e poi insieme puliamo a casa, ci inventiamo un torneo di calcio immaginario con le squadre più forti del mondo. Poi la cena, un po' di social e di TV, poca TV perché ogni volta che sento parlare di coronavirus la tachicardia aumenta, ma quando spengo la TV c'è il rumore delle ambulanze che subentra in sottofondo. Sono un po' agitato. Ah, ma faccio finta di niente, tutto questo passerà. E poi prima di andare a letto mi basta abbracciare mio figlio per sentire il cuore che si distende. Insomma, va tutto bene, almeno fino a domani. Cioè fino a oggi, visto che il pezzo l'ho scritto ieri, quando dovrò aiutare mio figlio a fare i compiti. Coronavirus o no, resta sempre questa, quella dei compiti, la prova più difficile per qualsiasi genitore del 2020. Un po' di ansia, un po' di ansia. Hai proprio ragione. Hai proprio ragione, caro Piero. Sì, caro Piero, stavo chiamando Piero da Roma, dal quale arrivo tra un attimo. Senti qui come ti chiamano, anche questo è stupendo. Leonardo Amarena. Non è male Leonardo Amarena. Piero da Roma, buongiorno Piero. Buongiorno. Eccoci. Sì. Che ci vuole dire? Volevo segnare un'iniziativa del mio ospedale, che è l'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, relativamente sì. al supporto psicologico agli operatori dell'area urgenza, del pronto soccorso, delle rianimazioni, che ovviamente sono sotto pressione in questo momento, anche se danno una prova eccezionale sia di professionalità che di, diciamo, di umanità, nel senso che sono veramente presenti, non ci sono defezioni, non si notano effetti, come posso dire, di assenteismo, ecco. Quindi certo. Grande che iniziativa, ma che iniziativa è in concreto? Cioè l'aiuto psicologico cosa vuol dire? Delle persone. E lo spiego immediatamente, diciamo, non è una tecnica che si usa nella psicologia dell'emergenza, quindi è una tecnica che consente di condividere l'esperienza. Questo vuol dire che nessuno si sente diverso, che tutti avvertono e condividono le stesse paure in questo caso, e quindi non crea quegli effetti negativi che possono dare atto a quello che si chiama burnout, cioè la, diciamo, la demotivazione rispetto al lavoro. Beh, insomma, Piero, grazie per questo racconto. C'è da dire che quando si parla di ospedali, quando si parla di operatori sanitari, anche oggi trovate sui giornali, vi segnalo per esempio Paolo Berizzi su Repubblica, pagina 7, fa veramente impressione, caro Leonardo, vedere soprattutto quello che sta succedendo a Bergamo, dove si parla di 385 morti in 7 giorni, persone che non possono neanche essere salutate dai cari, neanche per i funerali. Dolore che si aggiunge al dolore. Sì, e vedere i racconti, sentire, leggere i racconti di chi lavora in prima linea, vale a dire dottori, infermieri, personale sanitario dell'ospedale, fa veramente impressione, perché poi sono persone che salvano la nostra vita, ci provano, ma sono anche uomini, donne, sono esseri umani, no? Con tutte le loro sofferenze, con i loro patimenti e le loro difficoltà. Non dimentichiamo, non sono dei robot, sono persone che lavorano tantissimo, ma poi sono persone che hanno le nostre stesse paure, tante volte, le nostre stesse preoccupazioni. Caro Leonardo, niente, allora, il vetro com'è? È a prova? Ma cosa fai una volta che Beniamino ha pulito i vetri? Ti metti lì, fai la prova del dito, fai la prova dell'alone, sai quando si alita per vedere se è rimasto l'alone? Glielo fai ripassare con i giornali, sai che ci usavano i giornali una volta, no? Ancora adesso? Va benissimo utilizzare ancora i giornali per pulire il vetro, sì sì. Ho capito, vabbè, va benissimo. Però, deve imparare a fare qualche cosa, no? Non è che il genitore deve essere sempre a disposizione del figlio. Il figlio si mette a pulire con lo scopettone, questo deve fare, sì. Devono fare questo i bambini. Altro che i compiti. Ti informo che è ancora in età scolare, quindi dovrebbe seguire altri tipi di percorsi. Allora, quando avrà pulito tutta la casa, come premio potrà fare i compiti. Questa è la mia logica. Va bene? Bene. Senti, sembra che Beniamino crescerà bene. Bene lì. Siccome prima hai mandato un messaggio sull'osteoporosi, vuoi prima del giornale radio mandare un altro messaggio all'umanità? Magari un po' meno agrodolce, ecco, un po' meno amaro. Vuoi... Dai, dacci. L'esofagite da reflusso crea problemi. Capito, ma ragazzi, ma non so, anche suggerisci l'ultima serie su Netflix da vedere? Dai, fai uno sforzo estremo di dolcezza e di positività e lancia un messaggio col quale andiamo nel giornale radio. Dai, ma uno proprio, Vai, molto Leo. Positivo, molto molto vai. Bello. Vai. Tra 10 anni cambierà tutto! Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea. Una soglia oltre la quale siamo passati, a volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linea d'Ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Scrivetele in una o due pagine e inviatecele a lineadombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao ragazzoli da Massimo, ma secondo me i discorsi compassi non fanno la piega, non ha imposto obblighi, ma consigli, pro domo sua sicuramente, pro domo anche dei turisti, tornatevene a casa dove avete il vostro medico. Ma se io non posso recarmi dal mio medico di base e lo devo chiamare al telefono, che lo chiamo da Milano, che lo chiamo dal Trentino, che differenza fa? Ciao Milan, sono Claudio da Venezia, autotrasportatore. Digli pure al collega che il confine sloveno comunque è aperto, controllano uno per uno, c'è un po' di coda, però se devi scaricare del materiale all'interno del suo territorio puoi scaricare e poi devi ritornare senza caricare di nuovo. E va bene, insomma, questo è bella anche questa solidarietà tra autotrasportatori. Tra l'altro, tra poco parleremo di questo con un autotrasportatore. Iniziamo ora la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Anche se io qui, oltre al gatto Mojito, che non mi ha abbandonato un secondo, lui ama stare sul balcone, quindi sta qui sul balcone di Viale Monza. Ho una presenza che è più un moschino invece che mi gira intorno invece di stare a scuola. Non so tu, Leonardo, come sei messo lì, se Beniamino ha finito di pulire i vetri, di passare la cera. Non ha ancora finito di fare i lavori qui in casa. No, perché qui c'è Mattia che voleva salutarlo. È bello, da ridotta da Viale Monza a Piazza Udine. Ma c'è Beniamino? Sì, ciao. Ci sono. Ciao Begna. Ciao. Vabbè, Mattia. Studiare, come va la scuola? Vai a scuola? No, appunto. Va benissimo, guarda. Bene. Vai, vabbè, a finire, insomma, di stropinare. No. No, vai, no, a pulire i pavimenti. Ma vai tu. No, adesso papà deve finire la trasmissione, Beniamino, fino alle 10:30, però fai bene a ribellarti. Mattia, tu dovresti andare a studiare, vabbè. Vi rivedete allo stadio a vedere una partita del Milan quando riprenderà il calcio? Chissà quando. Sì. Chissà quando. Va bene, va bene. Un saluto allora da Mattia, Beniamino. Questo è, succede. E d'altronde si trasmette dalle case, e si trasmette dai balconi. Caro Leonardo, belli i tuoi messaggi. L'anticalcare devi mettere per il lavello. Scusa, vabbè, dimmi. Vabbè. Allora, nel decreto che abbiamo visto, è stato approvato, c'è un provvedimento molto importante. Ieri ne parlavamo col professor Remuzzi, cioè la possibilità di chi è laureato in medicina, che quindi ha una laurea, no? Di essere immesso negli ospedali, di cominciare a fare pratica, di essere di aiuto. E questa è una novità importante. La laurea vale già per iniziare a lavorare in pratica. Insomma, va bene, l'esame di abilitazione è importante, però io voglio salutare Silvia Perossini, buongiorno, che è con noi. Buongiorno, Silvia Perossini ha mandato anche un messaggio accorato su Facebook dicendo: io sono laureata in medicina e come tanti laureati avrei anche dovuto sostenere l'esame di abilitazione, che è stato però rimandato. Prima era febbraio, poi è stato rimandato ad aprile. Ora finalmente questo decreto, cioè solo con la laurea, senza nessun tirocinio, permette di entrare in ospedale. Ha capito che cosa può cambiare, Silvia Perossini, per lei e per tanti come lei? Sì, allora innanzitutto una piccolissima precisazione: i tirocini verranno comunque mantenuti, la differenza è che verranno fatti durante il corso di studi. Saranno tirocini valutativi che verranno aggiunti a quelli che comunque noi già abbiamo fatto nei 6 anni. Quello che cambia è che fortunatamente si è capito che dopo 6 anni di studio di tirocini e di pratica clinica, che comunque, anche se in piccola parte, ma ci viene richiesto di fare, noi possiamo uscire dall'università dopo la laurea ed essere abilitati alla professione senza dover sostenere un ulteriore test che di fatto ci fa perdere un anno, perché io avrei avuto il test a febbraio ma mi sono laureata a luglio dell'anno scorso. Cioè l'idea è questa: adesso lei potrebbe essere chiamata in un ospedale, entrare e fare che cosa? Ha capito su che fronte potrebbe essere utile fin da subito? Purtroppo questo non è chiaro. Diciamo che quello che noi come neoabilitati a questo punto vogliamo far chiaro è che noi non vogliamo assolutamente ergerci a specialisti di alcun genere, ma qualora ci fosse bisogno di un aiuto per dare il cambio anche in un pre-triage, anche in un'accettazione di eventuali Covid o gestione di non Covid, che adesso anche è importante, noi, ecco, queste competenze di base potremmo affrontarle, potremmo essere un valido aiuto senza dover essere tacciati di arroganza, perché nessuno di noi vuole entrare in una terapia intensiva non avendo mai fatto pratica in merito. No, ma è chiaro, il problema è che comunque sì, no, è il momento di lasciare la burocrazia da parte, no? Sì, comunque sarà necessario un po' di formazione, che insomma è fondamentale in questo caso. Assolutamente. Sì, ma quale luogo migliore di farla di un ospedale, ovviamente affiancati dalle personalità opportune, dai medici, dalle persone che possono insegnarvi, no? Come quanti sono, Silvia, le persone come lei che potrebbero essere valide in questo momento? Guardi, per quanto riguarda l'abilitazione di febbraio saremmo stati circa 5.700 in tutta Italia. Per i neolaureati. Io credo che, sì, io credo che ce ne sia bisogno in questo momento. È pronta? Le chiedo questo, cioè lei fasse una chiamata oggi stesso, domani? Guardi, sicuramente mi prenderebbe, come posso dire, un attimo, non dico alla sprovvista perché ce lo possiamo aspettare, ma sarei abbastanza umile come tutti i miei colleghi nel dire ok, io non so, ditemi che cosa posso fare, però penso che ognuno di noi anche in minima parte vorrebbe solo dare una mano agli altri, ai nostri colleghi. Certo, Leo. Non subentra un po' di timore, sia magari per non aver mai avuto a che fare con queste situazioni, anche per trovarsi immediatamente gettati in un periodo così complicato? Sicuramente, certo, una formazione in un periodo di pace, passatemi il termine, sarebbe quanto di più idilliaco, però sappiamo bene che ci sono state situazioni nella storia in cui persone sono state messe in prima linea senza avere nessun tipo di formazione specifica. Ripeto, non abbiamo nessuna pretesa, non vogliamo andare a fare i primari, vogliamo soltanto cercare di dare una mano. Una mano, ma io credo che sia assolutamente l'atteggiamento giusto, ed è bene che l'Italia, un po' sempre nel rispetto delle regole, impari in queste situazioni a sburocratizzarsi un pochettino. Ci sono molte migliaia di persone, medici, che hanno una laurea, quindi è vero che non hanno una specializzazione, ma hanno una laurea in medicina, ce lo diceva ieri il professor Remuzzi, la specializzazione, il tirocinio si fa affiancati dal personale opportuno, ma lo si fa lì, negli ospedali, dove l'emergenza, dove possono imparare, certo in maniera un po' drammatica e velocemente, che cosa voglia dire questa emergenza. Noi la ringraziamo, Silvia Perossini, vediamo, questo decreto è arrivato, vedremo nel concreto cosa significa. C'è Antonio che ci chiama da Milano. Sì, Antonio, buongiorno. Pronto? Sì, prego, Antonio. Sì, ciao. Senti Milan, ciao Milan, buongiorno Manera, buongiorno. Antonio Bradi, responsabile a Primag Italia, quindi noi siamo un club di vacanze svizzero che si occupa di turismo sostenibile, e non avendo clienti ma avendo soci del nostro club, siamo qua operativi, siamo in pochi presso il nostro member service di Milano, solo per incoraggiarli. Chiaramente molti cancellano le vacanze, ma noi siamo ottimismi, e tu ben sai Milan che Le emozioni sono contagiose, quindi siamo qui per dire loro che a breve tutto passerà con l'arrivo del bel tempo e torneremo a pensare a bellissime vacanze e a goderci insomma il nostro tempo libero in maniera dignitosa. Tutto insomma, qui andrà tutto bene, questo è il messaggio di Antonio da Milano, che ringraziamo. Antonio è di un ottimismo smisurato, mi sono commosso sentire una persona così ottimista. Beh, Antonio ha un po' ragione, però. Però ha un po' ragione, no? Non sei d'accordo? Ha ragione, non è detto che col caldo la situazione è migliore. Antonio, non ho mai incontrato un ottimista. No. Antonio, venga sotto casa mia a dire delle cose ogni tanto, me le grida da sotto il balcone, ecco. Antonio. Se Antonio fosse sotto il tuo balcone, tu cosa gli urleresti in cambio in questo momento dal balcone? Affacciandoti al balcone. Andrà tutto abbastanza bene. E Antonio ti dirà no, molto molto. Comunque anni di lavoro, anni davanti al microfono, anni in radio, e arriva il messaggio accurato di un ascoltatore dicendo per favore lasciate il microfono ai bambini che sono meglio. Bene, allora saluto Beniamino, saluto Mattia, andiamo un attimo al traffico perché poi autotrasportatori, tanti ci stanno chiamando, abbiamo un autotrasportatore, abbiamo un vostro collega per parlare un po' di questo momento. One Express, il pallet Express. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Shh, Allora, siamo qui con Paolo Cazzaniga, autista Cassano d'Adda, che salutiamo. Buongiorno Paolo, grazie di essere qui. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, sono giorni che sentiamo tanti colleghi, tanti autotrasportatori che si muovono, portano soprattutto le merci fondamentali, il cibo, per dare i rifornimenti. Come vivete in questi periodi di spostamento? Il traffico è migliorato, questo è l'unico forse aspetto positivo, esatto, no Paolo? Esatto, traffico praticamente è zero. Sì, questa è l'unica cosa. Per il resto... Per il resto qui in Lombardia è veramente grigia la situazione, eh? Hanno tutti molta paura, nonostante ci siano delle nuove norme, no? per scaricare in questi grandi magazzini, però veramente c'è tanta paura qua al nord. Ecco, ieri un collega ci ha posto una problematica. Voi avete ovviamente delle limitazioni dal punto di vista delle ore di guida, dovete ogni tanto, esatto, poi riposarvi, fermarvi. Ci ha chiesto questo autotrasportatore: non sarebbe il caso di derogare a questi limiti in questa situazione di emergenza? Qui c'è la questione sicurezza da una parte, però vorrei il tuo parere. Sì, anche secondo me sarebbe meglio una deroga, perlomeno in questo periodo, perché veramente se no è un casino, anche perché tanti autogrill sono chiusi, insomma, anche per riposare un po' un casino per noi in questo momento. Certo. Chiedevo se si sente particolarmente a rischio rispetto, sì, ad altre categorie persone. C'è l'app, insomma, che però tartaglia, Leonardo. Aspetta, sì, prova a ricollegarti. Chiedeva Leonardo Manera, adesso si ricollega, se si sente un po' più a rischio rispetto ad altre categorie, perché incontra persone, entra ad aziende. Sì. Guardi, con i nuovi metodi della sicurezza che hanno applicato adesso, sicuramente meno rischioso di una settimana fa, perché comunque ci controllano bene prima di entrare, diciamo, mascherina, guanti, ci provano la febbre, non si può più entrare nei magazzini. Allora, da un lato è brutto, perché comunque siamo segregati sul camion, però dall'altra parte, per la nostra sicurezza, insomma, è una cosa positiva. Questo è importante, però sì, capisco. Ecco, dal punto di vista degli approvvigionamenti, soprattutto delle materie prime, il cibo, l'acqua, c'è stata tanta tranquillità dal punto di vista del governo, ma ci può assicurare che è così? Cioè non ci sarà mai una situazione di rischio di carenza di materie prime? Magari non troverete proprio il prodotto tutti i giorni che volete, cari ascoltatori, però ci sarà sempre un approvvigionamento. Esatto, sì. Allora, io mai, non posso dirlo perché sono un semplice trasportatore, però noi stiamo facendo di tutto per non far mancare niente alla gente, insomma. I lupini ci sono. I lupini, ecco, Leonardo Manera, i lupini vuole... è goloso di lupini, sì. Quasi, purtroppo non li trasporto. Cosa trasporta? Noi trasportiamo un po' di tutto, birra, vino, caffè, sughi, un po' di tutto, niente merce deperibile. Ma brillantante, perché l'altro giorno Manera il brillantante era disperato, non trovava il brillantante. Ce n'è brillantante. Sì, c'è anche quello. C'è anche quello. Spiace che i lupini vengano discriminati. Comunque, io ieri ho visto nel supermercato carenza di lupini, mi è venuta un po' d'ansia, devo dire la verità. Comunque. Però scusa, Leonardo, hai la birra, vino, sugo, pasta, ma che ti frega di più? Insomma, scusa, devo rinunciare ai miei piccoli vizi quotidiani. Il mio unico vizio sono i lupini. Sono i lupini. No. Va bene, io vorrei sapere da Paolo Cazzaniga invece se è notoria la solidarietà o comunque la rete degli autotrasportatori, cioè vi conoscete tutti, vi sentite, vi informate, sì, è aumentata questa solidarietà come c'è tra gli italiani, una maggiore coesione, c'è un maggiore aiuto? Diciamo che siamo più uniti rispetto a qualche tempo fa, sì, quello sì. questa sì. È la cosa importante. Va bene, noi ringraziamo Paolo Cazzaniga, è autista di Cassano d'Adda, quindi Lombardia. E questo è un momento in cui davvero chiamateci anche nei prossimi giorni, 800 24 00 24. Hai notato, Leo, che tanti autotrasportatori ci chiamano, tanti ci seguono mentre sono in giro per l'Italia a lavorare per noi e per aiutarci. Adesso, caro Leo, come tu ben sai, no, ancora c'è il ma perché ancora? Ma c'è certo, ancora. Allora, certo. Vediamo se riesce a proporre un gioco fattibile, quello con le scatole di tonno, no, il metro lento. È il momento l'odio, dei giochi. Odio i giochi di Federico Taddia. Maledetto Federico. Federico Taddia. La macchina con una chiave. Oggi, tra l'altro, volevo dire a Manera che c'è anche Laura Faggin in studio che ci aiuta. Magari vuoi bucargli la gomma della bicicletta, Laura Faggin. No, Laura no, perché la conosco, so che è una brava persona, non come Giorgio De Luca. Appena si parla di donne, Leonardo Manera cambia subito atteggiamento. Va bene. No, vorrei salutare Federico Taddia. Caro Federico, ciao intanto. Oggi ci proponi i tuoi giochi. Attenzione, perché abbiamo una cartina di tornasole eccezionale. Ho chiamato qui al mio fianco Mattia, che ti ascolta. Grande, ti ascolta. Ciao Mattia, benissimo. Tra l'altro sono contento che Leonardo ha preso consiglio dal gioco di ieri di guardare fuori dalle finestre e ha fatto subito pulire i vetri al figlio, quindi esatto. Allora, proponici i due giochi di oggi, Fede. Allora, il primo gioco ovviamente continua questa sessione che insomma è molto gettonata dei giochi olimpionici in casa. Oggi, non potendo fare il salto con l'asta, facciamo il salto con la pasta. Il salto con la pasta, attenzione, okay. Attenzione. Serve un piatto di plastica, è semplice, facile, e un po' di pasta con 10 pennette, 10 fusilli, sì. Insomma, mettiamo un po' di pasta su questo o piatto. Solo gli spaghetti, vabbè. Vabbè, prova con gli spaghetti, anche te li concedo. Dopodiché, questo solo si può concordare con i giocatori in gara, quindi puoi chiedere a Mattia, bisogna cercare dei posti dove poter saltare in casa, sul letto, saltare dal divano, mettiamo un piccolo ostacolo ed è appunto da saltare, e ovviamente va saltato tenendo il piatto di pasta in mano. Chi fa cadere, cioè meno perde, pasta, perde chi fa cadere la pasta, insomma. No, perde chi fa cadere la pasta, certo. Leonardo, ti piace Mattia come questo? Salto. Sì. Mattia. Grazie Mattia, sì, bravo. Però, Federico, dovresti proporre giochi meno pericolosi, secondo me, per i bambini. È pericoloso, uno cade col piatto in mano, gli va a finire nella testa, deve dare dei punti di sutura e va a intasare il pronto soccorso. Io dico che questo è pericoloso come gioco. L'ottimismo. Dai. Allora, il secondo gioco allora invece è da fermi, questo è molto facile. Allora, si chiama il gioco dei soliti ignoti. Allora, per fare questo gioco serve una maschera di Amadeus. Una maschera da Amadeus, ma perché? A cosa serve? Serve a niente, però mi piaceva legarla ai soliti ignoti, quindi con la stampante cercate una bella faccia di Amadeus, la stampate su un foglio A4, se avete la stampante in casa, e vi mascherate. Una volta mascherati dovete imitare un parente lontano, un cugino, uno zio, un nonno, e appunto vince chi riesce a indovinare il parente misterioso con la faccia di Amadeus. Vabbè, noi abbiamo diversi parenti, Mattia, su questo potremmo farlo, insomma, con la maschera di Amadeus. Io non posso più perplesso, era più un salto con la pasta. Ma perché in questo caso, sai, i parenti che adesso si vedono anche meno, sono lontani, proviamo a imitarli, insomma, è anche un modo per ricordarli, per stare vicino, però giocando con loro. Però è fondamentale la faccia di Amadeus per questo gioco, Manera, mi raccomando. Amadeus, certo. Io questo gioco non posso farlo. Perché? Perché? Non ho neanche un parente. Ecco. Vabbè, ma ragazzi, senti, ma Fede, non hai un gioco amaro, un grande gioco amaro per pensane domani, per domani, un gioco, il gioco dell'amarezza, non so, qualcosa. Ce la possiamo fare per Leonardo Manera. Allora, vorrei che Mattia salutasse Federico Taddia col suo urlo, che è pappappero, pappappero. Puoi urlare un pappappero? Pappappero! È vero, è un po' l'urlo. è un po' l'urlo di guerra di Federico Taddia, esatto. Federico, ci troviamo domani, io ti ringrazio anche oggi. Noi chiudiamo perché, come sapete, dalle 10.30 alle 11 Nicoletta Carbone conduce uno speciale sul coronavirus con gli esperti. Leonardo, tutto a posto? Vuoi urlare al mondo qualcosa? Tu, Mattia, devi andare a studiare adesso. Leonardo, dai un ultimo afflato di bellezza, di positività, di ottimismo, di una parola difficile, di una parola difficile, andate a vedere il significato e domani ditemelo. Apocatastasi. Sì, ma l'hai detto anche, vabbè, ha urlato apocatastasi. Secondo me è la prima volta che mette il naso fuori del condominio, lo corchiano di legnate. Lo corchiano di legnate. Ha a che fare con il nostro periodo storico. Vabbè. Apocatastasi, va bene, un messaggio di fiducia allora? No, è questo? È quello, sì, quello, stiamo chiedendo. Apocatastasi, va bene, ciao, ciao. A domani.